GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il 10% della popolazione regionale sta rinunciando alle cure sanitarie. La denuncia arriva dal coordinamento Salute FVG, che propone di rimodulare le linee di finanziamento pubblico per la sanità, che finora, dice, sono state convogliate troppo spesso verso il privato. La maratonina di Udine si correrà nonostante lo sciopero della polizia locale a garantire il servizio di ordine pubblico e di traffico, la polizia e i carabinieri. I volontari dell'organizzazione della corsa presiederanno i varchi del percorso. L'organizzazione umanitaria Rescue, che da un anno offre assistenza ai migranti anche sulla terraferma a Trieste, ha annunciato che proseguirà la propria collaborazione con l'ICS anche per i prossimi mesi. Fine settimana col bel tempo e temperature estive, poi arriverà l'autunno, così le previsioni dell'ARPA. Gli agronomi dell'Università di Udine progetteranno le vigne papali di Castel Gandolfo. Intanto i produttori di mele regionali, che l'anno scorso hanno avuto il raccolto distrutto dalla grandine, annunciano per quest'anno un'ottima annata. Appena presentata la 103esima stagione concertistica degli Amici della Musica di Udine, con un omaggio a Salieri, inizia il sipario del cartellone di San Vito in Musica. Buongiorno da Nada Cioche e Maria Spezia. Quasi il 10% dei cittadini della regione sono costretti a rinunciare alle cure, tanti altri e tortuosi lunghi percorsi per le cure primarie e quindi ricorrono al privato pagando la prestazione. A sostenerlo il coordinamento Salute FVG, che questa mattina ha presentato diverse proposte per fermare il declino della sanità pubblica. Sentiamo il servizio. Fermare il piano inclinato della sanità pubblica partendo da un dialogo partecipato con la regione prima che la situazione sia irrimediabile è la richiesta del coordinamento Salute Friuli Venezia Giulia assieme alla CGL, che vede un settore che non è mai riuscito a riprendersi dalla pandemia e che, nell'accusa del comitato, manca di programmazione. Secondo il coordinamento, il 10% della popolazione in Friuli Venezia Giulia è costretta a rinunciare alle cure, minori risorse economiche, liste d'attesa infinita, mancanza di personale medico-sanitario. La percezione di una sanità che funziona in regione non c'è più e per questo serve un confronto. Michele Negro, coordinamento Salute FVG. Aprire un confronto finalmente in regione tra la parte politica, gli operatori e le operatrici, i cittadini e le associazioni che si occupano del tema. Non è più possibile andare avanti così. Vorremmo un servizio che non sia interessato solo alle prestazioni, ma che fosse protagonista della salute della comunità, con piani di prevenzione collettiva e reti clinico-assistenziali, dicono dal coordinamento, che chiede di verificare con gli operatori e i territori gli esiti delle scelte effettuate negli ultimi anni. La proposta è quella di assumere nuovo personale usando le deroghe, migliorando le condizioni di lavoro dei medici e soprattutto degli infermieri. Paghiamo molto la formazione e poi ci lasciamo scappare banalmente, perché non li paghiamo. Tra le altre proposte anche quella di ridurre il ricorso al privato convenzionato. Udine, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. La maratonina di Udine si correrà domenica nonostante lo sciopero annunciato dalla polizia locale per ottenere il pagamento degli arretrati dal 2021. Il prefetto ha convocato in una riunione il questore con il comandante dei carabinieri e il sindaco. Si è convenuto che in un'ordinanza del questore si garantirà le funzioni di pubblica sicurezza. I volontari della maratonina dal canto loro presiederanno i varchi della corsa. La polizia di Stato di Trieste ha arrestato un pakistano di 18 anni per reato di rapina in concorso. Nello specifico, il personale del reparto prevenzione crimine di Padova, durante il servizio di controllo e prevenzione, è stato avvicinato da un cittadino siriano che ha riferito di essere stato rapinato da due soggetti armati di taglierino in via Ghega. La vittima ha raccontato che era stato bloccato al muro dai due individui che, con un taglierino puntato alla gola, gli hanno intimato di consegnargli tutto il denaro che aveva con sé. Gli operatori hanno quindi notato nelle vicinanze i soggetti corrispondenti alla descrizione fornita dalla vittima. Uno di essi è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale, che ha dato esito positivo con il rinvenimento della somma di 180 euro. È stato condotto quindi in stato di arresto presso la casa circondariale di Trieste a disposizione dell'autorità giudiziaria. 100 giovani europei dell'associazione umanitaria Rescue, da giugno dell'anno scorso, dall'assistenza ai migranti in mare, hanno deciso di dare supporto anche a quanti arrivano via terra e lo hanno fatto a Trieste assieme all'ICS, una collaborazione che proseguirà nei prossimi mesi. People Saving People, persone che salvano altre persone. L'associazione Rescue, che dal 2019 opera nel Mediterraneo con navi e gommoni recuperando persone migranti in arrivo sulle coste italiane, da 15 mesi lavora anche a Trieste con equipaggi di terra. Dalla rotta mediterranea a quella balcanica, 100 volontari da tutta Italia si sono alternati nel centro diurno di via Udine o nei dintorni della stazione dei treni. Si tratta di giovani da tutta Italia e dall'Europa, ragazzi persino da Edimburgo, Bristol, Berlino, Helsinki, Londra. Siamo con Corrado Mandreoli, vicepresidente di Rescue. Questi ragazzi arrivano qui e che cosa trovano? Trovano una situazione per certi versi, come dire, strana, perché di Trieste in giro si parla di un'emergenza migranti. Qui incontrano migranti, li incontrano con gravi difficoltà perché arrivano da viaggi a volte di mesi, arrivano stremati, ma sono un problema assolutamente affrontabile. E tanto è vero che, come dire, i nostri volontari si trovano a distribuire vestiti, un tè caldo, pasti, la ricarica dei cellulari. E quindi, come dire, fanno soprattutto un'esperienza di incontro con una dimensione di giovani che hanno magari la stessa loro età e che raccontano storie incredibili, per cui, non so, gente che parla 4-5 lingue, che potrebbe essere assolutamente integrato in attività nel nostro territorio e che invece viene osteggiato, come dire, respinto, spesso anche, come dire, picchiato, perché nelle frontiere succede anche questo. La vostra scelta di spostarvi restando nel Mediterraneo ma arrivare qui a Trieste, perché? Perché la rotta balcanica è una rotta importante di arrivo nel nostro paese e, come dire, non valutarla così come valutiamo quella del Mediterraneo ci sembrava un errore. Trieste, Navi Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'imprenditoria femminile è una realtà sempre più consolidata nel settore della ristorazione dei pubblici esercizi. Sono infatti 95.870 le imprese condotte da donne, pari al 29% sul totale delle imprese attive. Questo è quanto emerge dall'elaborazione del centro studi di FIPE Confcommercio. Il Friuli Venezia Giulia è la seconda regione a livello nazionale con quasi il 35% di bar e ristoranti gestiti da donne ed è superato solo dalla Valle d'Aosta, che registra più del 36% degli esercizi pubblici a conduzione femminile. Agli agronomi dell'Università di Udine l'incarico di Papa Francesco di progettare le vigne sostenibili di Castel Gandolfo. Un nuovo vigneto per il Papa messo a dimora dagli esperti dell'Università di Udine. È stato il Vaticano ad incaricare i ricercatori dell'Ateneo Friulano che hanno operato in collaborazione con l'Istituto di Genomica Applicata e i vivai cooperativi di Rauscedo. Nei 20 ettari di terreni agricoli nella fattoria del Pontefice a Villa Barberini di Castel Gandolfo sono state impiantate le prime varietà resistenti alle malattie e al freddo. Già da 3 lustri, infatti, l'Ateneo Friulano è il punto di riferimento europeo per questo tipo di ricerca, che ha già viabilità commerciale e conta vigneti resistenti in diverse regioni d'Italia e di tutto il mondo. Ieri una delegazione dell'università è stata ricevuta in udienza dal Santo Padre. Lui stesso ha definito il progetto sintesi di tradizione e innovazione. Roberto Pinton, rettore dell'Università di Udine. I professori Peter Lunger e Zironi sono stati anche incaricati di coordinare un gruppo di esperti internazionali che collaborerà a questo ambizioso progetto. Lavoreranno nella cosiddetta Commissio de Fructuvine del Borgo Laudato Si. Per il Pontefice, un laboratorio per promuovere la conversione ecologica, l'economia circolare e generativa e la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Questo laboratorio, che vuole diventare un modello replicabile, è seguito da un organismo scientifico, il Centro di Alta Formazione Laudato Si, che ha come obiettivo rendere concreti i principi contenuti in un'enciclica papale. Proprio di questo gruppo di lavoro fanno dunque parte gli esperti dell'Università di Udine. Una bellissima esperienza, un grande riconoscimento per un progetto, fra l'altro, che ha visto un forte sostegno nel tempo, convinto da parte della Regione, il Ministero, e un coinvolgimento di importanti anche partner privati. La fattoria di Castel Gandolfo, nei pressi delle vigne, è stata voluta da Pio XI negli anni 30. L'orto sorge sui resti della villa di Domiziano, mentre i primi uliveti furono impiantati nel 1200. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Alla festa della mela di Tolmezzo questa sera è in programma alle 18 la consegna dei fondi raccolti con la vendita della spremuta integrale di mela Giulia, realizzata con le mele danneggiate dalla grandinata del luglio 2023 e destinate alla casa di riposo di Mortegliano, a sua volta colpita dalla stessa tempesta. Al presidente dell'associazione Mela Giulia, Peter Larcher, abbiamo chiesto come è andato il raccolto di quest'anno. La raccolta quest'anno è una raccolta che è partita molto in salita, nel senso che le prime varietà, quelle chiamate così estive o precoci, che abbiamo iniziato a raccogliere già dal 6 di agosto, sono state delle varietà molto penalizzate per il gran caldo, nel senso che purtroppo le colorazioni non sono così belle accese e anche gli aromi sono, diciamo così, un po' affievoliti a causa di questo caldo. Anche se l'annata si prospettava veramente buona, perché in realtà abbiamo avuto una primavera lunga e piovosa, dopodiché abbiamo avuto una serie di piogge che ci hanno introdotto l'estate. Poi è arrivato il caldo, i frutti sono cresciuti molto bene, non abbiamo avuto temporali o grandinate che hanno creato danni, però alla fine, al momento della maturazione, il troppo caldo ha penalizzato un po'. Poi è arrivato questo tanto atteso temporale d'agosto che ha rinfrescato il bosco, così anche se un po' in ritardo, e le temperature che ci sono adesso stanno invece creando ottimi risultati e miglioramenti, soprattutto sulle varietà autunno-invernali. Dal punto di vista della quantità ci si può aspettare anche quindi un raccolto fruttuoso? Diciamo che il raccolto è costante per quanto riguarda le quantità, almeno sulle prime varietà. Invece per quanto riguarda la qualità, i conti li faremo alla fine, sarà una buona annata. Il calendario di incontri di Pordenone Legge si fa sempre più fitto. Richard Ford presenterà al pubblico oggi la sua ultima fatica, Per sempre. Andrea Maggi parlerà del suo Socrate. Il saggista olandese Geert Mak svelerà il sogno dell'Europa nel XXI secolo e sarà un pubblico molto speciale quello che incontrerà Alessandro Bergonzoni e Massimo Cirri, cioè i detenuti della casa circondariale. Ma tra gli ospiti di Pordenone Legge anche un campione che non si associa necessariamente ai libri, Arrigo Sacchi. Sentiamo. Il pubblico delle grandi occasioni, ieri sera al Capitol per uno degli appuntamenti più attesi di Pordenone Legge. Sul palco il profeta di Fusignano, Arrigo Sacchi, il realismo visionario di uno romagnolo dal garbo d'altri tempi che ha fatto la storia del calcio azzurro. Anni poveri questi di soddisfazioni per la nazionale. Perché? Siamo sempre stati in tutte le nostre cose un po' disordinati, no? E quindi ognuno fa una cosa diversa. Guardate anche le case, sono sempre diverse, non siamo un popolo così fatto. In Piazza Motta invece l'aria elettrica anticipa la notte elettorale americana del prossimo novembre con Francesco Costa, vice direttore del Post ed esperto di politica stelle e strisce. I sondaggi dicono che sono 50-50, l'esperienza di questa campagna elettorale ci dice che i colpi di scena non sono mancati e non mancheranno. Oggi è davvero come tirare una monetina, fare un pronostico. La cosa interessante è che non si capisce in questa campagna elettorale chi sia l'outsider dei due, perché Kamala Harris è al governo e alla Casa Bianca ma non è il presidente, e Trump è l'outsider in teoria all'opposizione ma è già stato presidente. I ruoli si sono molto rimescolati in questa campagna elettorale. Stamani invece Enrico Galiano, insegnante e scrittore, con i bambini delle terze, quarte e quinte elementari. Sto notando in questa generazione questa specie di ansia continua, questa paura di affrontare la vita, che molto spesso si traduce anche in fenomeni che fanno pensare, sai, ragazzi che si chiudono in casa, ragazzi che magari si abbandonano a delle dipendenze in età veramente molto giovane. E allora io coi libri che scrivo cerco invece di dire no, sbagliare va bene, sbagliare anzi è l'unica cosa che ti permette di capire davvero chi sei. Forse se tutti noi adulti compresi, anzi adulti soprattutto, imparassimo a lasciare i ragazzi più liberi di sbagliare, poi li cresceremmo anche un po' più sani e forti. Pordenone, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. 12.45, passiamo al meteo. Il cielo è da nuvoloso coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 21 gradi, il mare poco mosso con temperatura di 21 gradi, a Pordenone 21, Udine 23, Gorizia 24, a Tolmezzo 11 gradi, Sappada 12.5, Piancavallo 14.5, Tarvisio 15.5, Forni di Sopra 16 in quota, sul Monte Lussari 6 gradi, sul Monte Zoncolan 9, sulla costa Lignano e Agrado 21 gradi, la temperatura del mare in entrambe le località è di 18,5 gradi. E per le previsioni meteo del fine settimana abbiamo parlato con il previsore dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, Sergio Nordio. Una settimana che è trascorsa con la variabilità e con la presenza di bora sulla costa, condizioni che andranno migliorando in questo fine settimana. L'anticiclone ci regala una pausa fra più depressioni che arriveranno poi successivamente. Quindi avremo un sabato tutto sommato con cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, su gran parte della regione un po' di nuvolosità è possibile in montagna, ma tutto sommato cose molto modeste, bora in calo, ancora un po' di borino, bora moderata al mattino sulla costa, poi il vento andrà attenuando, se avremo venti a regime di brezza. Una bella domenica in prospettiva con cielo anche qui sereno, poco nuvoloso, un'atmosfera tranquilla, temperature gradevoli, probabilmente guadagneremo qualche grado, le massime potrebbero arrivare in pianura intorno ai 26 gradi, intorno ai 25 gradi previsti sulla costa, quindi temperature nella media se non anche leggermente al di sopra dei valori del periodo. Il tempo poi cambia nuovamente lunedì, soprattutto nel pomeriggio e in serata, l'avvicinamento di un fronte porterà piogge anche abbondanti e temporalesche proprio a cavallo tra lunedì sera e martedì mattina. La settimana prossima pare comunque rimanere piuttosto umida, quindi molto diverso rispetto a questa settimana dove predominava la bora con aria più secca. Possiamo aspettarci un nuovo calo delle temperature a partire da lunedì? Ma direi di no, perché la prospettiva è che arrivino correnti meridionali, mediterranee, quindi tutto sommato ancora miti, e quindi non sono attese variazioni in questo senso, anzi le temperature rimarranno stazionarie su valori abbastanza vicini alla media del periodo. Cerimonia di commiato del sindaco Trieste da Don Ettore Malnati, che dopo 50 anni lascia la città e la parrocchia di Notre-Dame de Sion per tornare nel suo paese natale di Bisusicchio, Varese. A Trieste io devo tutto, sia dal punto di vista ecclesiastico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista ecumenico. Al di là delle ciaccole, Trieste, cara al cuore, è nelle mie viscere. Senza Trieste io non sarei quello che sono. È giunto il tempo del commiato per Monsignor Ettore Malnati dal 1965 a Trieste. Ultimo segretario particolare del Vescovo Santin, è stato al servizio della diocesi anche come vicario diocesano per la cultura. Malnati è stato inoltre delegato vescovile per il servizio delle cause dei santi e consulente della Santa Sede per la stesura dei discorsi degli ultimi tre papi. Per 50 anni ha retto la comunità di Nostra Signora di Sion. Lì non c'era niente e insieme con la gente, non da solo, che da solo non si fa niente, con le persone abbiamo edificato questa comunità. Quello che mi spiace tanto è lasciare i miei ragazzi, no? Sono circa 280 ragazzi in oratorio. Il sindaco di piazza ha ribadito il forte affetto che nutre verso Malnati, ricordandogli che le porte della città per lui rimarranno sempre aperte. Malnati ha ricordato l'amicizia che lo lega alla comunità ebraica, greca e serbo-ortodossa. Non ultimo ha sottolineato l'abbandono delle astiosità tra italiani e sloveni, i due polmoni della diocesi. Torna nel suo paese natale, a Bisuschio, in provincia di Varese. Sarà collaboratore pastorale nel decanato. Cercherò di fare un po' di orto, intanto continuerò a Lugano a fare l'insegnamento una volta e poi verrò a Trieste due volte al mese per continuare l'insegnamento ancora per quest'anno. Trieste, Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste la strada del Friuli questa notte rimarrà chiusa al traffico da mezzanotte alle 5 di domani mattina per effettuare lavori di manutenzione sulla rete elettrica. L'intervento di Acegas APS AMGA sarà eseguito nei 25 metri antistanti il civico 295 da entrambi i lati. In Friuli Venezia Giulia nell'anno passato 21 scuole con 2.400 studenti hanno partecipato ai progetti contro l'omo-lesbo-bitransfobia dal titolo A scuola per conoscerci. Per sostenere la richiesta, l'associazione che raccoglie 8 associazioni tra cui Arci Gay Arcobaleno Trieste Gorizia, Arci Gay Fur e FVG Pride ha lanciato un crowdfunding online con l'obiettivo di raccogliere almeno 7.000 euro. 50 bambini della scuola internazionale di Trieste e della scuola dell'infanzia di Longera hanno partecipato alla pulizia del mare davanti alla pineta di Barcola, supportati dai SUB e dalla società sportiva dilettantistica Mare Nord-Est. Armati di stivaletti di gomma e guanti, pescano fra i rifiuti recuperati dai SUB e li differenziano. Sono i 48 piccoli ecoesploratori della sezione materna della Scuola Internazionale di Trieste e della Scuola dell'Infanzia Comunale di Longera, che sulla spiaggia di Barcola hanno partecipato al progetto di educazione ambientale proposto da Mare Nord-Est, in collaborazione con il Comune di Trieste e la Regione. Edoardo Nattelli, General Manager Mare Nord-Est. Questo progetto è rivolto ai bambini delle scuole materne, quindi parliamo di età tra i 4 e i 5 anni, intitolato Piccoli Ecoesploratori, per sensibilizzare le nostre future generazioni sul fatto dell'ambiente, su come si può riusare, riciclare e avere cura di questo nostro mare. A guidarli idealmente il piccolo robot marino, protagonista della fiaba pensata e scritta da Monica Rana, responsabile dei progetti di tutela ambientale per Mare Nord-Est, che scopre una montagna di rifiuti galleggianti e, assieme ai suoi amici animali, decide di pulire l'amato mare. I bambini oggi riceveranno dai nostri SUB della nostra squadra di Blue Dive, che porteranno fuori del materiale trovato in mare, e loro, coadiuvati da insegnanti e ricercatori, divideranno i vari materiali recuperati, metallo con metallo, plastica, giusto per fargli capire appunto come viene fatto, come si svolge questa cosa, e sensibilizzarli sul fatto che non è giusto sporcare il mare con i nostri rifiuti. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. È giunta l'edizione numero 103, la nuova stagione concertistica del Centro Culturale Amici della Musica, che è stata presentata questa mattina a Udine, a Palazzo Torriani. Ne abbiamo parlato con la presidente Luisa Sello per chiederle quale sarà il cartellone fino a fine anno. Si apre con il 21 ottobre con una violinista di scuola russa e il sempreverde, così lo chiamo io, Bruno Canino, con un programma di assoluto virtuosismo, per poi proseguire con un programma a sorpresa il 6 novembre con un altro pianista italiano di grande richiamo, che è Roberto Cappello, che è già stato nostro ospite per più volte, però questa volta si presenta con dei friends, ovvero con contrabbasso, batteria e flauto, in un programma dal titolo Relazioni costanti. E quindi c'è una continua relazione tra la musica classica e la musica jazz, ovvero le influenze che il jazz ha avuto sulla musica classica, quindi musica di Poling, Milhaud, Gershwin naturalmente e Piazzolla. Si continua poi sempre a novembre con un quartetto d'archi classico, che è il maggior quartetto della realtà canadese, che ci propone musiche di Haydn e Brahms, ma anche delle novità dell'ultima generazione di compositori canadesi. Il 4 dicembre si termina l'anno con un'orchestra diretta dall'austriaco Ernest Bützel e due solisti, una al flauto, che è la vincitrice del concorso Moïse di Sofia, e al violino Carolina Novocinska, con musiche di Bach, Mercadante e la bellissima Holberg Suite. Al via questa sera anche la nuova stagione di San Vito Musica, che nasce dalla volontà di percorrere strade musicali alternative e poco battute, che si rivolge a un pubblico curioso che gradisce proposte di pregio e insieme diverse, come dice il direttore artistico dell'Accademia d'Archi Arrigoni e curatore della rassegna Domenico Mason. Sono 7 i concerti in programma da oggi al 31 dicembre per un viaggio da Mozart fino alla musica contemporanea. Tra i tanti ospiti il violoncellista Enrico Bronzi, i direttori Alessandro Cadario e Filippo Maria Bressan, il pianista Costantino Catena. Il debutto di questa sera è dedicato al compositore settecentesco Antonio Salieri, alla vigilia del bicentenario della morte. In programma anche la sua celebre bellissima Sinfonia Veneziana. Appuntamento all'Auditorium Comunale alle 20:45. E con questo invito chiudiamo questo giornale radio, che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Federico Comar e Samuel Montalto. Da tutti noi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.